Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore amore. E continuiamo a parlare di maturità, lo facciamo con la voce di Antonello Venditti, che così cantava ai microfoni di Radio 24 lunedì sera, la vigilia della prima prova scritta dell'esame di maturità. Sentiamo com'è andata nel racconto di chi queste prove le ha vissute sulla propria pelle. Tu che traccia hai scelto? Io ho scelto quella sul piacere, perché era l'unica che mi ispirava, le altre non mi piacevano per niente. Io ho scelto la traccia scientifico-tecnologica, che era sugli alieni, l'esistenza o meno degli alieni. E ho parlato del fatto che per alieni non dobbiamo intendere gli omini verdi con le orecchie a trombetta, ma comunque forme di vita differenti. È andata più o meno bene, me l'aspettavo più difficile. Abbiamo fatto il tema 2 sulle resistenze e l'effetto Joule. Non ce l'aspettavamo queste due tracce, però alla fine ce la siamo cavata. È stata una sorpresa che poi abbiamo gradito, in quanto presumiamo di aver fatto abbastanza bene. È andata abbastanza bene, i quesiti non erano impossibili. Tutte cose che avevamo fatto anche in classe. Più facile di quanto mi aspettassi. Le avevamo viste le prove degli altri anni, ma mi sembravano più difficili. Beh, insomma, sembrano abbastanza soddisfatti i ragazzi. Ora gli iscritti sono archiviati, lunedì si comincia con gli orali e presto potrebbero esserci delle novità. Infatti il ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini ha annunciato che dalla maturità del 2012 vorrebbe inserire test nazionali per i maturandi. Si tratta delle prove invalsi già in uso alla primaria e anche da quest'anno all'esame della secondaria di primo grado, le medie. Quindi prove uguali per tutte le scuole, che non si capisce ancora se dovrebbe andare a sostituire una delle prove che già ci sono o ad aggiungersi. Il pedagogista Giuseppe Bertagna al microfono di Matteo Finco. Se nei prossimi anni ci sarà una prova nazionale, questo contribuirà ad arricchire il portafoglio valutativo. L'importante è non ridurre la valutazione dello studente solo a questo ultimo esito, che deve entrare invece in un discorso di complessità, e quindi la valutazione dello studente deve provenire da tanti fattori, tra cui questo è uno degli elementi di sicuro non ultimi per assicurare una valutazione che sia affidabile e non invece adulterata. Perché poi troppo spesso forse ci sono anche delle disparità nella valutazione. La disparità nella valutazione è naturale, perché ogni persona è unica e irripetibile e ogni situazione è la situazione che è, e quindi è inevitabile che durante i percorsi sia gli insegnanti, sia le famiglie, sia gli alunni debbano ricevere un'attenzione valutativa che tiene conto dei contesti specifici entro cui crescono. Questo non vuol dire che non servano prove di valutazione che prescindono da questi contesti e da queste unicità e che fanno confrontare i singoli, insegnanti o studenti o famiglie, con prove formalizzate, astratte, universali, valide per tutti, che prescindono dalle differenze individuali. E questo ha bisogno di una valutazione, ed è significativa, perché è importante anche confrontarsi con l'oggettività e l'universalità. Così come ci sono compiti in classe che sono uguali per tutti in una situazione specifica, allo stesso modo è ragionevole che ci sia, tra virgolette, un compito in classe uguale per tutti in tutta Italia. Dalla unione di questi diversi elementi di valutazione dovrebbe risultare un profilo che sbaglia meno di quanto può sbagliare il profilo attuale, che invece manca di queste comparazioni e di questi confronti. Insomma, sarebbe anche forse un obbligo per gli insegnanti di raggiungere certi livelli, di finire comunque sempre il programma. Beh, guardi, qualsiasi prova, complessa finché vuole, non potrà mai esaurire l'intero profilo formativo che deve essere assicurato dopo un percorso che è ben di 13 anni e che è il più lungo al mondo. È vero quello che dice lei, e quindi la prova nazionale contribuirà a far sì che la scuola tenga conto anche di uno standard nazionale. e stimolerà gli insegnanti a correggere il loro insegnamento tenendo conto anche di questa variabile. Quello che io penso sarebbe sbagliato è costruire 13 anni di scuola in funzione della prova nazionale unica per tutti, perché questo significherebbe scardinare, diciamo, la complessità e l'armonia di un percorso formativo tutto volto sghembamente verso il sostenimento e il superamento di una prova. E per chi alla maturità non c'è ancora arrivato, è invece il momento delle pagelle, anche se quest'anno questo rito è stato teatro di diverse proteste. Contro i tagli al personale della scuola, contro il taglio agli stipendi per il personale della scuola previsto dalla manovra, anche se su questo aspetto proprio giovedì si è registrata un'apertura da parte del ministro Tremonti. Resta infatti il blocco degli stipendi previsto dalla manovra per tutta la pubblica amministrazione, ma Tremonti ha aperto ai sindacati della scuola per quanto riguarda il congelamento degli scatti di anzianità dei docenti. I soldi arriveranno dal 30% degli stessi risparmi già realizzati nella scuola. Consegna muta dunque delle pagelle in molti istituti, fra cui il comprensivo Rasori Pascoli di Milano. Sentiamo l'insegnante Esther Santilli al microfono di Ludovica Scaletti. Riguardano il taglio del personale, non solo, ma anche ultimamente il fatto che economicamente gli insegnanti stiano pagando un prezzo altissimo già da sempre, ma in questo momento in particolare sembra che dobbiamo portare la bandiera, per cui tutti noi, tutti sacrificati non solo nei posti ma anche proprio negli stipendi e in quant'altro. Quindi sono delle ragioni, come dire, qualitative rispetto proprio alla modalità di insegnamento, a tutto ciò che viene decurtato alla scuola pubblica e anche ovviamente di tipo sindacale economico. Praticamente cosa è successo, cosa avete fatto alla consegna delle pagelle? Allora, alla luce di quanto sta avvenendo, abbiamo deciso, considerato che la preside andava avvertita e questo l'abbiamo fatto, ci siamo riuniti in plesso, per cui sia gli insegnanti di Rasori che gli insegnanti di Ruffini hanno stabilito questa linea di condotta, che era la distribuzione in silenzio delle pagelle e tutti insieme, non ciascuno nella propria aula, in linea, se vuole, con il comportamento di tante altre scuole di Milano. Naturalmente il tutto è avvenuto all'interno dell'edificio, perché come credo tutto il mondo sappia, insegnanti e presidi, che io di solito chiamo illuminati e sono pochissimi, sono stati pesantemente redarguiti dalle autorità perché appunto non avrebbero dovuto pronunciarsi in merito a quanto sta succedendo. Qual è stata la reazione dei ragazzi e dei genitori? Quelli che sono comunque intervenuti al ritiro della pagella sono rimasti un po' sgomenti, ma molto seriosi. E a quel punto si è detto, lo sai che perché facciamo questa cosa? E la risposta è stata, sì sì, la mamma me l'ha spiegato. E poi è stato, ma poi dopo fuori ti posso salutare, perché comunque sono dei bambini, sono dei ragazzini. I genitori devo dire che sono stati molto rispettosi di questa situazione e forse era necessaria nella nostra zona, era necessario uno scossone di questo tipo, perché in genere siamo stati sempre un comprensivo che ha funzionato alla grande, ricchissimi di progetti, veramente interventi molto molto importanti, ma a questo punto i genitori si sono resi conto che con il POF dell'anno prossimo tanti di questi progetti, questi interventi che abbiamo veramente inserito nel nostro POF per anni e anni, non sarà più possibile attuarli e credo che in questa situazione ne abbiano preso coscienza, o quantomeno nel mio immaginario spero che sia così. Protestano gli insegnanti, ma protestano anche i genitori, soprattutto per i tagli che hanno penalizzato il tempo pieno. Giovanni, presidente del Consiglio dei genitori del 139esimo Circolo Didattico di Roma, al microfono di Ludovica Scaletti. Noi abbiamo voluto dare il segnale che con questa scuola, in queste condizioni, sono le famiglie a sentirsi danneggiate, comunque, e che quindi sono i genitori una volta tanto a scioperare. Concretamente abbiamo rifiutato di ritirare le pagelle, oggi era il giorno in cui siamo stati convocati dalla scuola per ritirare le pagelle dei nostri figli e noi concretamente, cortesemente, abbiamo fatto presente che non avevamo intenzione di ritirarla. Naturalmente, come tutti gli scioperi, questi hanno una fine, poi ci sarà un momento in cui naturalmente queste schede verranno anche ritirate, ma ci sembrava utile dare il segnale di una giornata di mobilitazione, di sciopero dei genitori, che peraltro ha avuto un'adesione altissima, calcolabile nei termini di 2/3 più o meno dei genitori di una scuola che conta più di 700 bambini. Ma bisogna aprire gli occhi sul fatto che ormai il malessere della scuola italiana è enorme e in una situazione in cui il grosso dei tagli deve ancora arrivare. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.